This is not a time for conventional thinking or outdated dogma. Non è tempo per opinioni convenzionali o dogmi sorpassati, ma per un veloce e innovativo intervento che vada al cuore del problema. Metteremo in atto tre passi. Primo, dare un indirizzo immediato al problema dei flussi di denaro alle banche. I prestiti sottoposti a uno schema speciale di liquidità saranno aumentati da 100 miliardi di sterline a 200. Secondo, dobbiamo assicurare una salute a lungo termine al sistema britannico delle banche. Oggi stiamo offrendo aiuto alle banche aggiungendo capitale addizionale, investendo direttamente attraverso titoli privilegiati oppure, se loro ce lo chiedono, aiutandole ad aumentare il valore delle azioni ordinarie. Le banche maggiori si sono impegnate ad incrementare il loro capitale di 25 miliardi che renderemo disponibile se lo desiderano. In aggiunta a tutto questo forniremo almeno altri 25 miliardi. I nostri sforzi sono mirati a far sì che il sistema bancario sia forte e sicuro. Terzo, per una piena attività commerciale, noi forniremo garanzie per far sì che le banche possano raccogliere da sole la liquidità sul mercato per ripristinare l'attività di prestito. Contiamo di fornire almeno 250 miliardi di sterline di garanzia.